qualcuno. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. E sto controllando. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, 10, prego. Ma questo bip è smontato già. Ah, Natali, il bip è smontato, Ma prova, attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Avanti Natalino, buonasera! Ciao Gianni, con la buonasera, ben sentito. E allora, non si è presentato nessuno stasera qua? Era un po' in ascolto e non ho sentito nessuno, la verità. Aspetta che mi attacco il cellulare, Natalino. Ok. Vediamo se c'è Marco Condo. Marco Condo, ci sei? E perché ieri? Ah? Mi illumi! Marco Conno è entrato! Oh, io in quell'istante accendo la radio e sento Gianni che si lamenta, non entra nessuno, vabbè allora la spengo anch'io, dai me ne guardo, ciao. Guarda questo Marco Conno in che situazione mi ha messo, è vigliacco proprio! Perché sei cuocomane, Natalì. Non mi fate ridere che sono volato. Perché io no? Dai, voglio vedere quando ti fai vedere. Perché siete tutti tossici. Ehi, poi devo fare l'acquisto a me, Natalì. Quando passo da te ti devo dare a te due cose. A Gianni la do a te, che tanto vi vedete più spesso, no? Il famoso minchiofono con eco. Da mettere a posto, è una saldatura da fare che io non ho nessuna voglia di fare. Dai, sto tornando adesso, devo far roba, un saluto festoso a tutti, rimango in ascolto, dai, devo, adesso mangiamo eccetera. Ah, oggi è arrivato l'ennesimo battery eliminator, Natalì, per quello arancione, ok? Ci sentiamo, vai Gianni, a dopo, o a domani, ciao. Ciao Marco, ciao. Buon pranzo. Sì, ciao Marco, infatti ola. Avanti che hai detto ola, avanti! C'era un'ola da lontano, lontano, lasciato bene. Neanche l'uffo grigio non si è sentito. E oggi non esce, no, che c'è freddo. Ma la gruppo ci ha detto che avete la tosse, ho detto perché siete tossici. Non avevo ferrato l'alato messaggio. Ah, l'avete capito la battuta. Ehi, mi prendo un po' la trachea di polmone, no, tosse. E tanto, se le succede, succede. In cui adesso ci mancava l'epidemia cinese pure. Vabbè. Mia moglie mi ha detto di non andare nei negozi cinesi. Avete parlato in due, non è passato né l'uno né l'altro. Ho capito i negozi cinesi, io ci sono già andato in un negozio cinese, a Piazza dei Cigni, mi serviva una batteria e tanto loro sono sempre lì, non sono tornati dalla Cina adesso, capito? Dopo sarà più preoccupante la cosa, se si espande. Ma adesso la roba che mandano può essere infettata. Vabbè, come battuta è buona, però il virus non sopravvive all'esterno del corpo umano così tanto. Tu conta che la roba dalla Cina ci sta un mese ad arrivare, il virus dura poche ore al di fuori del corpo umano, capito? Io già ho capito, mia moglie è che si è detto così, a non andare nei negozi, che l'hanno avvertita di non andare nei negozi cinesi. Quella è la psicosi. La psicosi comincia a dilagare. Ma poi il tasso di mortalità non è poi così tanto alto, no? Di già 1.000 o più contagiati o qualche migliaio di contagiati, morti sono solo 73, se ci pensi no, non è così alta. Se arriva il virus letale, che dico io, con 98% di mortalità, già stai secco. Ma abbiamo parlato in due. Tu Natalino devi riprendere solo quando ti viene comandato. Guarda che non sono io che ho parlato sopra nessuno, perché siete soprappopolati, tu e Gianni. Chiedo venia. Sì, è così. E dalle, oh, siamo in tre e ci stiamo sopramodulando l'uno con l'altro. Dai che vado a scaldare la roba, dai. E poi devo far roba. Ciao, a da voi. Cosa stai preparando, va? No, è già tutto pronto. Mamma ha voluto, perché stravede, non che io, per il cotechino con le lenticchie, come le prime dell'anno. E poi pure di patate, forse insalata, tipo surimi e belga, qualcosa del genere. Cappaga. No, a me il cotechino non mi piace. Un po' grasso. Ma se sai cosa mi sono mangiato? Il salmone affumicato con limone, però mi sono messo una schianata e me l'ho mangiato. È già buono anche quello. Ho il salmone fresco da arrostire, mamme di turchi, già non te ne dico niente. Il gatto è impazzito, quando gli ho dato alla gatta quella ingorda, no? Il salmone fresco arrostito. Ecco. Vabbè, riprendete voi, eh. Se no qua non combino niente come nelle altre serie. Ciao. Io il salmone lo faccio aglio prezzemolo, poi cina per la pelle, poi li metto limone sopra e il vino bianco e dopo mi libero. Ah Gianni, ti volevo dire, per te è più sano lo stinco. Lo stinco è molto più sano, molto più magro, non è vomitevole, perché l'altro è tutto imbevuto di grasso, no? Però a me piace proprio per quello, tanto il colesterolo ancora è buono, quindi finché non mi scoppiano le arterie continuerò a mangiarlo. Ciao, non riprendo, ciao. Ma è l'Andrea, va bene, dai. Ok, ciao Marco, fatti vedere che dobbiamo fare qualcosa al computer, che tu ne sai e io no. Ma sei bravo di mattaglio. Ma su certe cose no. E invece Marco è aggiornato, capito? Ah, siccome... ho capito. Scappa. Aggiungavi... già vi vedrete qualche giorno. Ci dovevamo vedere tutti e tre insieme veramente, andare al bar a farci una cosa, bere al bar, a bar. E qua farci qualche cosa e non va a portare quella roba a te, quella roba a me. Ma vabbè, stai a sciampanire. Che cosa vuoi che ti dica? Questo Marco una ne fa, cento ne pensa. Vabbè, vediamo un po' i sviluppi della situazione. Babbo, a parlici da casa è peggio di te. E io oggi, pure malato sono uscito, già mi hai visto. Mandrone, mal di schiena, sono mal di schiena, ma ho preso lucchi poco qua. Speriamo mi faccia qualcosa. E ti ha fatto effetto, no? Appena preso, mi chiama fucilata. Sì, appena preso, dopo 5 minuti fa effetto. Vediamo, non so che ti dia. Quando gli ho chiesto di farmi il caffè non hai visto cosa ha risposto. A Pisantini a farmi un buraetta. Se me ne potevo alzare come volevo io, ogni volta che volevo io non era stata lì a dirmelo. Questo è poco ma sicuro. Quando là non capisco, non può. E tu l'hai visto come ero stamattina? Marco mi ha fatto il filmato camminando da dietro, io non me ne sono accorto. E se fosse a cantare da la uffa, bastardo. Da. Bobo. Ah, sono di musica come tu piccavo, tanta banda da uffa. Perché tu non ti piccavo? Ma non più di tanto, Marco, tiene più che altro la gamba rigida dove c'è il collo del piede, non lo piega. Scusa, adesso tu vai a tu, dico al metal detector dell'aeroporto non passa. Sì, che passa, c'è il documento, gli hanno fatto il documento all'ospedale, presenta quello e non fa niente. Cioè, anche un amico mio era stupido di peso e è passato. Vabbè, ma devi avere il documento, se no passi non passa, perché sono. Sì, sì, è così, devi avere il documento, se no ti fanno passare. Poi se ti passano nel metal detector te lo vedono, non c'è il bello. E Marco è ricostruito tutto, cazzo, ti sento un po' che verrà ricostruito, chissà. E la tutta spappolata. Cazzo, un po' io ho paura di arrivare anche a Dio, perché è tutto ferro. Dovrebbe essere non proprio ferro, aspettiamo, sai. È un altro materiale. L'acciaio chirurgico è o titanio? Titanio, non è titanio. Oh, ma metto in titanio, qui sopra il giro. Oh, iaia. Ora noi, vabbè, c'è un mezz'ora no, che non è entrato in più. Sono Marcolino. Sì, vabbè, adesso se ci sentono, se c'è... la produttore, il Joker, cosa, come si chiama, Eugenio. Quando esce dal lavoro Eugenio non parla, chiama a sé. Ciao, so. Cazzo, più la vedo quell'antenna più mi piace quella che c'hai tu. Solo che a fare amichizia, Gesù Cristo mio. Ti fa aiutare Natale, già te la danno, ma... Quello già lo so. Sentito, secondo me ci sta bene quello, non ti può arrivare, metti fuori in inutile, se riuscì hai risolto il problema, perché se fai di fuori ti fanno tutti contro, è un casino, dopo non è uno solo, sono tanti, quindi l'unione fa la forza. Quello è poco ma sicuro. Quelle antenne di fuori non ne fanno, capito? Perché non hanno radiati. Poi non c'è questo grosso coso di ferro, nulla, è solo un filo. Capito? Io penso che... E però irradia bene, vedi? Irradia meglio della mano. Io mi sono accorto che arrivo... Arrivavo a Santiago Otte, oggi non ne arrivo 9-5 adesso. E tu la vai male di te? No, no, no. Benissimo, la grande, buonasera. Ciao, bra. È così davvero, ci arriva a volte oggi. Non rispondo già, poi potresti offenderti, ma non c'è vecchia. Allora, tutte le antenne che hanno i radiali fanno TV. Tu devi considerare che c'è l'antenna nuova, c'è il cavo nuovo. E tutto coincide, tutto è perché l'antenna che avevi faceva leggermente schifo, non c'era più niente. Tutta pratica, tutta messa male. È chiaro che ci sarà o ci può essere un guadagno, ma non è derivato da irradiamento, irradia meglio dell'altra. Non c'entra niente. Già due persone mi hanno detto che arrivo meglio, anche Massimiliano mi ha detto che arrivo meglio dell'altro. Hai guadagnato due punti esce, qua non hai guadagnato quasi niente. Adesso ad esempio c'è il segnale che avevi con la Mantova, uguale, preciso identico. Puoi avere un watt in più, puoi avere un watt in meno, dipende dalla radio che usi. Qua c'è lo stesso segnale preciso della Mantova, mentre il giorno l'hai piazzata avevi qualche punto S in più. Qua, da me. Poi, gli altri non lo so che impianto hanno, io so del mio, perciò, capito? Non c'entra assolutamente niente. C'è l'impianto nuovo, è chiaro che qualche cosettina si guadagna sempre, i PL sono nuovi, non sono più ossidati, il cavo è nuovo, quindi chiaramente guadagna qualcosa, è tutto un sistema, l'antenna è nuova, tutto lì, cosa vuol dire? Da che mondo è mondo le cinque ottave sono tutte uguali, ricordatelo. Da che mondo è mondo? La radiazione di un'antenna 5 ottavi è uguale a tutte quelle che sono costruite nello stesso sistema, assolutamente. Io ti ripeto, io ho la Mantova da quando è uscita e non ho mai avuto problemi, di nessun modo. Forse la mia posizione, non me ne accorgo. Qualsiasi antenna monta il segnale è sempre uguale. Anche se non è forza, tanto... disturba perché il piano di massa è attaccato all'antenna della TV di quell'imbecille, hai capito? Come fai a dire che l'antenna disturba se tu non disturbi la tua televisione? È un sistema sbagliato che hanno loro, non tu. Quell'antenna è eccezionale, va benissimo. Chiaramente per eliminare il problema, l'unica cosa che bisogna fare, se ti fa salire su, siccome su si lavora bene, si sfila l'antenna, si aggiunge un palo e si rimette l'antenna, quindi si porta su di 2 metri, quell'antenna è una favola, è una favola. Non c'entra niente a radiali o non a radiali, io sono convintissimo al 100% che se tu li monti l'antenna di Gianni, fai TV lo stesso a quei signori, non al tuo. Se non disturbi il tuo, non devi disturbare neanche quello degli altri, è un problema loro, non tuo, Mattarino, te l'ho già spiegato. Quello già lo so io, però disturbo anche uno che è lontano, uno che è alla fine del vicolo, però il problema è sempre loro. Certo che sì, perché è troppo bassa, pensavamo di risolvere il problema non succedendo quello che è successo, però il problema è sempre loro, perché quell'antenna è eccezionale, Antonello non ce l'ha, l'ha modificata, non so che cazzo ha fatto, però come quella, non è che cambia molto. Il sistema è sempre quello, c'è l'antenna attaccata allo stesso palo della TV, è un problema di antenne, è un problema di impianto televisivo, non c'entrano niente i radiali. I radiali dell'antenna, ricordatevi che servono per far sì che il piano di massa sia regolare, e la legge dice, o il montaggio dice, che deve essere 2 metri dal piano del basamento o del tetto o del piano del terrazzo, sempre 2 metri, 2 metri e mezzo, quella è troppo bassa. Capito? C'è i radiali sopra l'antenna della TV, però rimane il fatto che al tuo televisore non lo disturbi e sei nello stesso punto, disturbi a loro perché c'hanno un impianto fatto alla cazzo di cane. Sto dicendo che quello che io disturbo è sotto l'antenna TV mia, perché è nello stesso palo della mia antenna. Quindi ne conviene che, come ti sto dicendo io, non serve a niente sostituire antenna, o fare antenna, mettersi a fare. Lì l'unica cosa, te l'ho detto, se quel signore amichevolmente ti fa salire su, ok? Si sfila, si allargano i cavallotti, è facilissimo lì, visto che non ho ancora radiali. Si sfila l'antenna, è leggerissima, si aggiunge un palo da 2 metri, telescopico, da innestare su quello là, che c'è, perché sopra ci sono i dadi, quindi si può mettere un altro telescopico, e si tira su, si mettono 2 tirantini, io sono convinto al 100% che tu non disturbi più a nessuno. Assolutamente, ma non è che sono convinto, sono più che convinto. Diciamo, ma è difficile, già è debole quel palo che c'è, dove è attaccata quell'antenna. Il vetro. Che strimito? No. Se si aggiustano le antenne è un conto. Se no, cosa dovresti dire? Beh, noi l'ultimo elemento di quello chiaramente lo mettiamo più robusto, perché va a salire e quindi va più robusto, non è un problema. Io lì non ho nessun problema, come avevano detto che non si poteva montare, io sono venuto, ti ricordi, ho fatto un sopralluogo, ho fatto 2 foto, ho visto come andava montata, l'antenna abbiamo montata. Lo stesso sistema è per allungarla, non... o si allunga là sotto o si allunga là sopra. Non, non ce n'è grande difficoltà, c'è da stare molto attenti, ci vuole gente brava e che segua quello che sta facendo, capito? Non è un problema tirare su di un paio di metri con l'antenna e tu non disturbi più, perché quella è una signora antenna, qualità prezzo, quella è una signora antenna, perché Marco ce la vuole a quella e arriva da tutte le parti e non disturba nessuno. Io l'ho visto anche da poco dove ce l'ha montata, c'è un palo e sotto il palo c'è l'antenna TV, ma stiamo scherzando, non c'entrano niente i radiali, non vi fate segmentare con i radiali. Il discorso di Gianni è validissimo, perché lui ha deciso di montare un'antenna senza radiali perché ne aveva le balle piene di perdere i radiali per colpa dei curvi, però tutte le antenne che hanno il piano di radiazione non hanno nessun problema di disturbare, dipende sempre da come è fatto l'impianto. Io mi ricordo a casa di mamma nel lontano 1976, a casa di mamma io non disturbavo, al vicino ogni volta mi bussava al muro, mi bussava al muro, alla fine mi sono rotto le palle, avevamo fatto un controllo fatto accuratamente e praticamente il cavo era tutto pieno d'acqua, capito, era completamente pieno d'acqua, cioè lo tagliavi e uscivano le gocce dell'acqua dal cavo della sua antenna TV, come la stessa cosa quando io ho montato l'antenna in via Pascoli, che io chiaramente al mio non disturbavo nessuno del palazzo, di fronte una signora anziana che con Franco le abbiamo fatto l'impianto nuovo a spese mie, e ci aveva la centralina per terra, tutta una tratta natrosolante, tutti i connettori attaccati, giuntati mi Natalì, non saldati, no, ho messi bene dove devono andare, giuntati tutti col coso, e me l'aveva fatto mio figlio, l'ha detrattato tutto, siamo andati da Fusaro con Franco, ho comprato connettori, tutto quello che serviva, gli ho fatto una mensolina dove la centralina gliel'ho messa in alto con Franco, ma neanche con 1 kW lo disturbavo più, quindi l'esperienza ce l'abbiamo fatta, è così come facevano a Gianni che rompevano le palle, la stessa cosa. E poi cosa è successo? Che Gianni si è rotto le palle, ha chiamato il tecnico, ci controlla questa antenna, ecco, hanno sistemato l'antenna, ecco lì che tutto si è risolto. È una rottura di palle, lo so, però è sempre un problema di impianto l'antenna TV. Noi non disturbiamo a nessuno. Vai Gianni. Il tecnico l'ha nominato il condominio, quando è venuto gli ho fatto vedere l'apparato omologato, il cibo con 5 watt, poi è salito su, ha toccato l'antenna, se ne è parato un pittetto, poi ho fatto, ho già capito cos'è, ti stavo per ordinare il pittetto su qua, ma non è uno. E praticamente adesso faccio un rapportino, scrivo che ci vuole l'antenna nuova, per il resto l'impianto è a posto, il tuo, quindi non c'è niente da dire. Se lo ricordi a Franco, Cla, che faceva TV e da tutte le parti, faceva, con l'omologato. Cazzo, l'ho messo a mano io l'impianto di Franco, mi sono cazzato in un'altra capiciuria, come se ha toccato l'antenna di Rubrimo, cazzo, me ne è parata in mano. Ha detto, dove è stato Franco, no? gli ho messo l'antenna del primo nuovo, gli ho fatto gli spezzoni nuovi, c'aveva l'amplificatore in mezzo all'era, in terra, e mi era già attaccata una drave, insomma. Cazzo, la Giudizia Teresa, metti la portante e guarda il televisore, manco un tempo ti disturbava più. Infatti è una cosa normale, non... Noi siamo a posto, le antenne sono state costruite per avere radiali e così vanno usate. Poi sono state fatte altri tipi di antenne senza radiali, vanno benissimo, ma non è un nostro problema. Rimane sempre il fatto che chi ha un impianto fatto bene, io guarda, ho la coda del nord, praticamente del dipolo dei 40 metri, che siccome è abbastanza lungo, è agganciato sotto l'antenna del primo, e noi abbiamo l'antenna centralizzata. Io in HF uso anche un kilowatt, un kilowatt e mezzo, mai nessuno si è permesso di dirmi niente, né nel mio palazzo, né in tutto il condominio, né di fronte, né da nessuna parte. O quando giri direttive che magari passa davanti alle antenne TV e ci do che ci do, se gli impianti sono fatti bene non succede niente. Se lì dove sei tu ci sono gli impianti fatti a culo di scimmia, per non dire altro, il problema non è tuo, Natalino, nel modo più assoluto. Tu stai sereno e tranquillo, dal momento in cui adesso l'estate a tempo buono si studia un sistema, qualcosa, non è difficile fare, si sgancia solo quel tirantino che avevamo agganciato là, ok, e con molta attenzione si solleva, si riabbassa e si allunga il tubo, oppure si fa direttamente da sopra, se proprio lo vuoi sistemare al 100%, però ti posso garantire che quell'antenna funziona. E come funziona? Se 9-10 qua Natalì, ed è bassissima quell'antenna, è molto bassa, è molto bassa, è un impianto fatto che Dio ce ne scampi il libri, perché per fare quell'impianto già hai visto cosa abbiamo dovuto fare, però è fatto bene, non ti preoccupare, anche perché c'hai cavo buono, c'hai tutto buono, quindi non è come dico loro, che si sistemi l'impianto all'antenna e poi vedi che tu sei che minchia con Nara. Le antenne sono frasi, che sono vecchi, non è che ci ha fatto male l'impianto, sono vecchie le antenne qua. E l'antenna è anche quella nostra, ha 17 anni, perché quando io ho piantato l'antenna hanno messo l'antenna nuova, quindi c'ha 17 anni, è pratica buonissima. Ma guarda, noi perché avevamo sul condominio, eravamo in attivo a chiusura del bilancio 2019, metà di gennaio mi fa, se mi ricordo il 10, il 12, un lunedì, mi ha chiamato l'amministratore e mi ha detto le cambiamo le antenne TV. Ho detto cambiamo, che problema c'è? Le vuoi cambiare? Ho detto non voglio rischiare che poi l'inverno qui, là, va bene, cambiamole. Sono andato a Fosaro, mi sono fatto fare il preventivo e abbiamo cambiato le antenne la settimana scorsa, tutte e due, addirittura nella scala F, quella a fianco a me, nella scala G, no, nella F sono io, nella scala G abbiamo messo anche la centrale nuova, perché era vecchia e aveva una perdita di segnale del 40%, è venuto Gavino anche, con l'analizzatore, l'antenna, ha fatto tutte le prove, tutte le cose, ma è tutto qua, una mano le mettiamo nuove, le abbiamo messe nuove, eppure funzionavano perfettamente, le abbiamo messe nuove, quelle di ultima generazione, nuove, a larga banda, e basta. Tu, però, se un amministratore queste cose le segue, le fa, cioè non è che ci vuole tanto, per quanto ci vuole, 150 euro, compreso il lavoro, o più l'impianto, che niente, si fa, capito? Abbiamo cambiato il cavo che praticamente dalle antenne vanno alla centralina, perché le centraline sono nei sottotetti, nelle mansarde, capito? tutte canalizzate, tutte tolte con la sonda, con l'impianto come deve essere. Quello è stato l'amministratore Gianni. Se tu vedi che cazzo l'impianto antenna c'ha 20 anni, continui a lasciarlo così. Delibera in un'assemblea, servono 20 euro in più, tutti a testa, dobbiamo mettere le antenne nuove perché c'hanno 20 anni, ma funzionano, non me ne frega niente se funzionano, mettiamole nuove, così amiamo le antenne nuove. Invece questi cazzo amministratori pensano la loro tasca e basta. Adesso te le comprate tu nuove, quanto viene un'antenna TV completa, Claudio, canale? Quella che abbiamo comprato noi della Flaccarro, quella di ultima generazione, che praticamente c'ha anche il sistema digitale, no? Quello con la griglia larga, lunga, molto belle, sono in alluminio molto molto robuste. Fusaro ci ha fatto 35 euro l'una, 35 euro l'una, poi il cavo, i connettori nuovi che vanno attaccati alle centraline, insomma. In tutto mi sembra che il preventivo era sui 140-150 euro, più 50 euro per si è preso per, perché io a me non mi è entrato niente in tasca, io l'ho accompagnato su, gli ho dato una mano, e poi le chiavi ce le ho io, quindi non è che le do così a Gavino. 50 euro ha preso per il montaggio, quindi in tutto fai 200 euro, 200 euro, ma noi siamo in tanti, se consideri che siamo 18 nella mia scala e 18 nell'altra scala, le abbiamo cambiate tutte e due, quindi ci è venuto una cazzata, capito? E le abbiamo messe nuove, proprio la settimana scorsa, quando aveva fatto quel bel tempo. E io gli ho verniciato anche tutta quella stampa che era ruggidosa, l'hai vista, molto più su, la bomboletta che me la prende male, l'ho tutta verniciata. Così almeno è a posto, ho fatto, ho tirato l'antenna, me l'ho addrizzata e niente, adesso va tutto bene, lo lascia stare come vuole. Il palo è addrizzato, non l'antenna, l'antenna non è attirante, quel palo che pratica, però attento, non tirare molto i tiranti devono lavorare, quando c'è il vento devono allargare e stringere, perché se sono molto tesi si rischia con un maestrale forte di sganciarsi o di tirare via il tassello o sganciarsi il nodo. Io ce li ho sempre leggermente non tirati tirati, non tesi tesi, comunque non nella manta, ma io non ne ho, ma nell'impianto, l'impianto amatoriale ce li ho non molto tesi, così mi hanno detto, perché devono leggermente stringere e allargare col vento. Vabbè, adesso vediamo se, perché domani mattina sono a Olbia già, facendo i lavori a Olbia, ma penso per fine settimana di portare via quella roba, così liberiamo lì e non rompono le palle. Vai Natali. Avanti Joker. Chi è Gavino? Tu sei Gavino. Ciao Gavi, ben ascoltato un po' tanto. Ma dove sei? Arrivi bassino? Kappa. Dai, metti qualche cosettina lì, almeno a fare due chiacchiere, a rilassarti. E anche noi non è che siamo in tanti, oramai siamo rimasti pochi. Io ho un po' di impegni che ho preso, e quindi sono anch'io un po' assente, la verità, però stasera sono rientrato presto, mi gioco bugiardo, ho la finestra aperta come al solito, qua c'è un grado da morire, e quindi ho teso a entrare a salutare i ragazzi. Va bene Gabi, arrivi ma molto molto basso, forse arrivi meglio da Gianni che è più vicino a te. Avanti Natali. Ciao Gabi, non lo stesso. Oh Gabi, se ti può interessare, Eugenio sta dando la sua antenna a 30 euro, perché se la sta prendendo un'altra. Se ti può interessare, io te lo sto dicendo a titolo informativo. Vabbè, stiamo parlando. Gabi, ho capito, dai, mi piace la mantova, ma le mantova adesso è un po' difficile trovarle in commercio. Avanti Luca. Non chiama nessuno. Buonasera, no, stava parlando Gabino da Porto Torres, se arriva molto basso, ma io lo sento. Claudio lo sente, Natalino non lo sente, forse non lo sente. No, io lo sento, ciao, ciao, ciao Claudio, ciao Cristina. Papa l'acceso. Ah, ho capito. Buonasera anche a te. Gatta, il periodo degli asparagi Luca è uscito. Cioè, ci sono su... sul forum, ce n'è uno che ha preso 5,80 euro asparagi. Devo andare. No. Sì. Adesso vediamo se il tempo è buono, cioè se piove, no? Io sono in posti vicino a casa mia, sono in posti però con la gamba così come fa lui. Cioè in posti una bella maturata di Dubai, quando vado che andavo con il cane a prendere anche i finocchietti per le capi, ne trovavo un bel. Lui li ho presi in Piazza dei Segni, quelli della, della Crucca ce l'aveva, quelli della comunità, fatti lì a, a bancare, in quella zona di bancare. Ho preso due matti 10 euro, ma belli belli, belli, belli, belli. Infatti domani facciamo lì di faccio, perché stanotte no, no, stanotte c'ho altro. Però ci sono, ci sono, già stanno uscendo. Segreto agli asparagi che siamo tetri, c'è sotto il giro che ne prendo. Il gambo non me lo mangio dritto, lo dolcio. Taglio il molle, no, già sono buoni, sono belli, non sono di coltivati, no, sono fatti, infatti. Ne avevano una decina di matti, li hanno venduti tutti. Infatti io ne ho preso due, perché era 5 euro il matto, e ce n'è un bel. Domani li faccio, non so se facciamo il risotto con gli asparagi o qualche altra cosa, non so, adesso vediamo, però ci sono due, stanno uscendo, dopo lavoravo io a Santa Maria Covina, c'è in quella zona, il periodo degli asparagi si fanno d'oro, ma c'erano vecchietti, mia cassetta intera, quelle di plastica, cassette intere ne facevano. Conosco anche uno che va a Chiaramonti a fare. Beh, quella zona è piena perché è molto umida anche, quando c'è il sole salgono che è una meraviglia, capito? Chiaramonti, Martisi, Laerro, Bulti, Sedini, Perfugas, tutte quelle zone lì sono molto umide, capito? Lì in mezzo a passare il fiume e quindi è così. È così. Gavi, se mi stai ascoltando, io ne devo riparare una di Mantova, che in pratica è il piantone che aveva Gianni. Che aveva Gianni, però credimi, non ho molto tempo in questo periodo, non ho molto tempo. Se hai un po' di pazienza, ne ripristiniamo una. Ne ripristiniamo una e te la prendi. Nell'altro piantone si tiene riscosso. Capito? Proprio perché Mantova non ce n'è, la verità, non ce n'è. Bisogna tirarla da fuori e te la fanno poi una barca di soldi. Qualcosa abbiamo di recupero, però funzionante. Ma non è più professor Luca quella. Ne abbiamo due. Ah. Perfetto, ne abbiamo due, ma già me la putti, ma c'è, se dovesse romperci o non funzionare più la prendo e la metto nuova, la metto nuova, già la trovo, io non ti preoccupare. Ehi, Nagio, radioamatori in Alta Italia, amici, non c'è problema, una telefonata me la faccio mandare subito immediatamente, come ho fatto con questa che ho amato da uno, non problema. Ne abbiamo due, ne abbiamo due, non è un problema. Poi non abbiamo preso Luca in direi di Buning Santenna. Non ho capito dove la vuoi mettere, se la vuoi mettere sul tetto o dove. Come dove qualcuno, ma se ne vuoi mettere due, hai capito? La deve mettere a casa di Marina. No, a casino ce ne hanno due. Una è boh, mi sa che va nella buca. Perché a Gavino se una la ripristino e gliela do, non è un problema, quindi a me non mi serve niente, assolutamente, assolutamente. assolutamente. Ui, a cazzo quanto gioco c'è, sono dalle 5 e mezza, mi sono alzato oggi. Alle che ora sono uscito? Alle 6, meno 10, alle 7 e un quarto, già oggi. Mi sono rientrato, sono andato lì e sono rientrato che erano le 4 e mezza. Vabbè, e domani è la stessa cosa. Ma Gambi non ha risposto, io non l'ho sentito. Gambi! Adesso, io. Vecchia Caronia, caro mio, non ha di Bugana, no? Pensavo riposarmi, invece ho fatto una cosa e quindi devo ancora combattere, devo combattere, vabbè, roba mia, roba per me, quindi vabbè, va bene che va bene. Ok, dai, riprendi Natali, io rimango due minuti in QRX che mi finisco una cosettina qua che stavo preparando della documentazione là, che mi serve per domani mattina. Riprendi. Buongiorno. Prendo per salutarvi tutti che non sto tornando. Aspetta. Sono con questo mal di schiena che mi ha mantenuto. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao Natà, ci aggiorniamo, dai, dimmi, oh Gavi. Filippo? Dimmi, lo vuoi godenoghi? Mi adesso si è alzato. Adesso si è alzato, a girarsi, adesso si alza. E poi si ricorica. Dai, sempre qua, Gavi. Ma un cane? Ah, il pastore Fornesi. Il mio genero c'è quello del Caucaso. Che ancora più umano, per carità. E vai, ma tu sei in campagna, Gavi, va anche bene. È già una fatica a tenere questi, di questa stazza. Gianni, Gianni, sa che cosa, adesso rompi male. Sono buone a casa, ti fanno compagnia, però più grande di quello non lo puoi prendere. E nemmeno bongo. Assolutamente. Ok, dai già, riprendi tu con Gavino e con Luca che io mi allontano un attimo, riprendo subito. Aspetta, non hai sentito la nuova legge che deve uscire, ci vuole il patentino per partire del Caucaso, il Pitbull, l'American Bull e praticamente dai dog argentini, ci vuole il patentino adesso. Ma io ce l'ho il patentino, se fa l'istruttore. No, vabbè, cosa c'entra? Magari chi ce l'ha, però ci sono le persone che ce l'hanno e non hanno il patentino, devono prenderlo per obbligo adesso, perché se ti trovano sotto il patentino sono sempre più di me. Sì, ma è giusto così, perché per poter tenere cani del genere devi anche avere una dimistichezza, degli aggiornamenti e le cose. Oh, Pippino, alza, bevendo, alzate, vieni a noi, no, vieni, ciao, che tu l'hanno drommi, cazzo, peggio di mia suocera, sì, cazzo, drommi a Russia, chi tu? Ah no, è un mio Pippino. Stesso, e vabbè, adesso c'hai anche il cane, capito? E quelli sono cani da campagna, proprio, sono cani fatti per la campagna. Cosa ce l'hai? Libero lo lasci. Un bel grosso, ma sei grande di età, quanto c'hai? Pesa 20 e c'ha 4 anni. L'ho visto su internet che ci stavi giocando, stavo guardando il filmato, l'ho visto. Infatti non riuscivo a capire se era un pastore polonese oppure se era qualche incrocio, qualche cosa del genere. E vabbè. E quelli sono cani che sono abituati in campagna, capito? I pastori polonesi si sono fatti proprio per la campagna. Tengono a mezzare pecore per far la guardia anche alle pecore. È un cane da guardia, è tirato tutti i fischi, è un cane pastore ma da guardia. Quindi, è fa falso, non vero quando fa la guardia, non è che sia... Oia, ma la campagna lontano da Sassari ce l'ha. Ah, ho capito, sì, ho capito, e andando verso il sorso, là, dopo l'incrocio che c'è per Platamonte. E cane, bisogna che tu ti insegni a obbedire, quello è l'unica cosa. Il cane deve obbedire il padrone, poi può giocare, può fare tutto, però nel momento che tu gli dai i comandi ti deve obbedire, è quello che c'è. Vabbè, il mio ha un po' un carattere autonomo, non è che siamo obbedienti, però molte cose le fa, mi dà tutte e quattro le zampe, si siede quando dico seduto, risponde quando lo chiamo, però è un po' al tutto suo, ha il carattere un po' autonomo. Luca ci si. E a capitare. Buon divertimento, va. Ci sentiamo. Chi è rimasto su 10? Allora cari, qui Giulio, dai, buonasera. E come mai così in ritardo oggi? Ehi, bastardo, ho preso le cose e l'ho computer. Ah, vabbè, anche il computer alla fine qui mi stanca. Non puoi fare sempre le sue cose, computer, televisore e macchina così. Ma intanto meno da quel fare. A questo punto non è che ci siamo, non è che viene poi tanto. Ehi, vabbè, interessante che ti passi la giornata. E magari uscite un po', ma se tu scendi. Ehi, la mattina, sì, la mattina esco sempre. La sera, ma dove vai? Oh, la sera per freddo, non fa uscire. C'è umidità, mi sembra così, ma c'è umidità. C'è un freddo allucinante. Infatti oggi è molto umido la giornata, ma non si sapeva, ma era così. Mettevo la bevola al ricatto, ma era così. E infatti i dolori, se si fanno sentire. Ho preso anche i rucchi oggi, non mi ha fatto nulla. Purtroppo è questo. Ma già sto uscendo, sì, sto uscendo bene, sì. Certamente. Contratto l'antenna nuova, l'antenna da rimasta. No, te la sta facendo sospirare. Da poi ha vinicolato il contento, ui, non passa più. Ehi, vabbè, sempre quello già, già è venato, lui già, già resiste. 130, 130 li toccava, la 500 l'amico mio, c'aveva, la mia toccava di più, era una truccata, però c'aveva il motore Abba, faceva 130 salita di vari la mia, però faceva 9 al litro. E allora vuol dire che era manovretta e dunque era truccata. No, aveva il motore Giannini, non Abba, Giannini. C'aveva carburatore a trombuncino, marmitta di quelle grosse, la coppa dell'olio che usciva fuori, che era grossa lo stesso, si vedeva da dietro la coppa dell'olio, c'era scritto Giannini, la coppa dell'olio. E aveva la testata e così, la nomina. Ma la Giannini era già una macchina elaborata, dunque è chiaro che camminava e consumava quel lì. Poi quella che c'aveva lui aveva fatto le cose, lo sai che una volta si è andato da quell'elettrauto, non so se c'è presente dove c'è i silvestri, che si scendeva giù e c'era un elettrauto, ce l'è presente? E dove? In via Porto Ottolosi, c'è i silvestri, che c'era, hai visto dove avevano investito quella che avevano ammazzato quella signora, che cosa era? Scende, c'era un coso, un elettrauto. Sono sceso lì per fare mettere il filo della bobina nuovo, perché mi hanno detto vai lì che è un bel bravo con l'elettrauto. invece lascio il tessuto della bustina, l'avevo fatto io tornando dal Alghero, un cazzo che si è sciolto in mezzo strada, che stavo in camion, mi ha detto il gatto nero, ferma, sì, e non mi ha detto, ah vai, come è passato il gatto nero, la macchina ha fatto bu bu bu bu bu bu e si è sculato, te l'avevo detto, adesso è stato un caso, non è che era, beh, fatto sta che si era sciolto il filo della bobina, io per fortuna ci avevo la scatola degli attrezzi e tenevo sempre una treccia di massa, sempre in macchina, e gli ho messo questa treccia qui, ho messo 13 di scotch, di nastro e sono tornato a casa, e l'indomani me l'ho fatta cambiare, e c'era una fotografia grande grande dove c'era la macchina mia, che aveva la tettuccia a scacchi, e la striscia come si usava prima da una parte, e c'aveva il numero degli sportivi, e faceva legare la macchina mia, e ha detto, ma questa è la macchina che preparavo io. E quando l'ha vista, sì, guarda la targa è uguale, cazzo, si vedeva la targa, era bellissima, e faceva legare la macchina che ho comprato io, la pizza. Sì, che ti puoi immaginare, sicuramente allora era stata preparata prima, per cui no, se no non avrebbe potuto fare legare. Era preparata, sì, cazzo, se ho superato una passud a 130 nella salita di Marini, cazzo, mi ha paesato, vuol dire, ma che macchina vai? Allora, potevi dire, il motore di un aeroplano, io. Però, ti ripeto, faceva i 9 al litro, c'aveva i contagiri dentro, contachilometri, tutto diverso dalla 500 normale, volantino, marce basse, era tutta elaborata. Beh, solo il fatto che facesse il 9 al litro, hai detto tutto, la 500 che ci fa il 9 al litro, cosa può essere? Un motore elaborato e basta. Poi l'avevo portata in moto perché avevo bruciato la guarnigione della testata e per spianare la testata non si poteva fare perché erano cromate le testate e dovevi mettere la testata cromata che stava benissimo, allora ho preferito versarla come ferro vecchio e l'ho versata quando ho preso il 127 da posta, come si chiamava? Quello che dove c'era l'Istituto d'Europa, ce l'ha presente, che prende qua da Palome. Ho capito. Sì, sì, ma non mi ricordo come si chiama quello. Silano, se ne pare. Forse Silano, forse, non sono sicuro. Quello lì, praticamente, gli ho preso il 127 a seconda mano. Il giorno stesso che l'ho preso, vado con la mia ragazza Plantamona, stavamo tornando, si è sganciata la farfalla delle... che c'è quella che tiene la leva del cambio, il cambio si è andato da una parte all'altra, siamo saliti in seconda, sul viaggio in seconda, ogni tanto mi fermavo, ripartivo, fino ad arrivare a Sasse. Poi gliel'ho portata, ci volevano 5 minuti per farla perché il meccanico me l'ha detto, lui ha detto lasciala stare che così passa un po' di tempo di garanzia e me l'ha tenuta quasi 2 settimane. Sempre se cosa anche salita, partendo salita, con rischio di bruciare la pressione. Quanto male dovevo, anche perché allora si facevano le cose di nascosto, quindi non era possibile sgarrare l'orario. Insomma, eri un pirata della strada, dai, ho capito. Poi, sì, già camminavo, non mettevo la sinistra e mi battevo in culo come un bambino. Io ho sempre camminato molto piano, dunque c'era un fatto che ho guidato già, cioè che avevo patente 54 anni, si può immaginare, e non avevo mai avuto niente, per cui ho sempre rispettato le regole. Anche io ho sempre rispettato la segnalina, è così. Dove potevo camminare, camminavo, non potevo camminare, non camminavo. Però nei punti dove c'era strada larga e cose mi tiravo le macchine, non è che... Poi ho avuto 227, ho avuto l'850, ho avuto l'appunto, ho avuto 2 Astra Station Vego, insomma non ho già avuto i macchi. Beh, come tutti, dopo tanti anni è chiaro che prima o poi la devi sostituire, però come fai? Lo so, ma qualche notte con la chiusetto di più, ma quasi 20 anni mi la lì, 17 anni fa. E ci aveva 350.000 chilometri quando l'ho dato. Un Puma di linea, praticamente come un Puma di linea, lo stesso chilometraggio. Ti sto dicendo che camminava come il primo giorno che l'ho comprata, mai rifatto il motore, mai rifatta la pistone, mai cambiata la marmitta. L'unica cosa che ho cambiato è la valvola, quella che c'è nel catalizzatore. €80 ho pagato per cambiare. E poi una volta mi si è bruciata la centralina, ma così io penso che sia col baracchino che l'abbia bruciata, che me l'è bruciata. L'ho fatta partire e me l'ho dovuta comprare nuova. Bene, se la vuoi c'è anche rifatta, però rifatta ti può durare da una pera a certo tempo, invece quando la prendi nuova la garanzia di 2 anni, se ti si rompe questi 2 anni te la sostituiscono completamente. E allora l'ho presa nuova, 1200 euro. Sì, l'ho macchina che è 350.000 km, se ti tira la cosa da 100.000 costa 1200 euro, non ne voleva la pena. Ma io la volevo tenere all'inizio, avevo cambiato tutti i freni, tutti i tamburi, avevo rifatto gli ammortizzatori, l'avevo rimessa tutta a posto. Poi ci ho ripensato perché per aggiustare una cosa si rompeva l'altra, era troppo consumata la macchina, capito? E allora l'ho venduta a un amico che ne aveva bisogno, gliel'ho venduta, lui poi non ce l'ha fatta a pagarci l'assicurazione perché era 1000 euro, perché era la prima macchina che aveva, e ce l'ha venduta a un altro. Quest'altro l'ha venduta a una ragazza che lavora al Paolo VI. Insomma, è passata 50 mani, diciamo. Sì, comunque, quando poi c'è un numero di chilometri, è chiaro che la macchina non può essere più un brillante. Non è solamente il motore, tutta la meccanica che vuole praticamente essere sostituita, dunque a quel punto non vuole valere la pena. Uno che lo può fare la macchina ogni 2 anni la deve cambiare, uno che lo può fare, come già ti fosse un rappresentante che non paga IVA, e a lui gli conviene. Cambiarla, la macchina c'ha sempre il valore suo, perché poi ha passato troppo di valore, non vale più nulla. Appunto, invece se era che i 2 anni hai sempre un racconto praticamente, è un anticipo. È un buon anticipo, la prendi bene, capito? E appunto, è così che bisogna fare, ma è cosa che prove che fa, non tutti lo possono fare. E appunto, io l'ultima l'ho tenuta a me proprio perché non volevo spendere i soldi, anzi avevo intenzione di comprarmi un'altra casa, di vendere questa, di comprarmi un'altra, poi le cose non sono andate come dovevano andare, allora mi sono preso la macchina. Fatto bene. No, io le ho sempre consumate le macchine, la verità, anche perché ho camminato sempre piano, dunque a me la macchina, non ho quell'aspirazione di avere una macchina veloce, non me ne frega niente, io vado piano sempre. Ma la macchina scattata è in un sorpasso, quindi ti serve un sorpasso azzardato, in un'urgenza, una cosa, è bello che scatti la macchina. Non so, io ne ho avuto tante di utilitari, questa qui è l'unica che ho preso che è scattante, questa è un jet. Sì, ma non è obbligatorio sorpassare, guarda, uno può andare dietro in colonna con la tua macchina, tanto quando sorpassi cosa avvici? Non avvici niente. E se sei in fretta, se prendi in ritardo al lavoro, devi arrivare a quell'ora lì, e sei in ritardo, sorpassi, devi stare attento e sorpassi, come l'ho fatto io tante volte. E appunto, passavo uscire 5 minuti prima e il tempo non era così stretto. Una volta mi ha fregato la sveglia, non mi ha suonato Giulio, e dovevo entrare alle 7, capito? E così erano le 7 meno un quarto, ero ancora a casa, mi sono lavato come i gatti, vestito in fretta, ho preso la macchina, 10 minuti sono arrivato a poco d'ora. Ma è sempre un rischio già, è un rischio così. La macchina bisogna portarla a camminare piano, anche perché qui le strade in Sardegna non è che siano così tanto tranquille e sicure, no? Ma adesso vado piano, non corro. cazzo ti fanno? Adesso ho la testa attaccata al collo. Che cosa che deve essere? Uno deve andare piano, aspettare tutte le segnalate, la segnalistica, tutti gli stop, tutti i passaggi pedonali. Non è che si calcola, ma che bisogna stare sempre molto attenti. Ricordate che il pericolo viene dagli altri, non viene soprattutto da te, ma soprattutto dagli altri. Se poi basta un ostacolo, qualsiasi cosa che ti capiti di colpo, se sta andando piano riesci a prendere, se correnti non ti la fai. Appunto, poi la gravità dell'incidenza è sempre subordinata alla velocità della macchina, del mezzo. Ma certo, loro si trovano a fratta di 200 km, 200 metri, vuol dire che stanno andando a 140. Appunto perciò, non lo so io. Non ce ne cambiare forte, uno è da parte, corre da parte. Qua abbiamo ore sotto casa, non si può attraversare, camminano come una scala piccana. L'altro giorno stavano per investire il mio figlio, ho fatto portare il cane a Marco. E mi ha detto, papà, fate il tempo a indietreggiare col cane, io e il cane, perché se no ci mettiamo a sotto. Stavamo attraversando, questa macchina è passata sparata. E fate pensare tutto gli incidenti che ci sono in città. Quest'anno mi sono più di 100 incidenti di attacchi, sono 130 incidenti, e investiti tantissime persone anche sul passaggio pedonale. E non lo so io, ma se sei vero. E il primo è quello che porta le pizze sotto casa, che se mi rompe le palle chiamo la stradale e lo segnalo, passa sempre sparato con la macchina. Attraverso un bambino, un anziano che non ce la fa camminare, o io che adesso non riesco a correre attraversando. L'altra volta lo stesso a me, cioè ci sono i passaggi pedonali dietro la curva, adesso anche lì hanno sbagliato perché dovevano farli là, hanno fatto i passaggi pedonali, come fai la curva ti trovi il passaggio pedonale davanti, se sei andato piano è un conto, se stai correndo metti sotto la persona, è così che lo metti sotto, mi ha scartato. Me lo metti tutti i detto mi scusi un cavolo, tu non devi camminare così. Si ammatti le persone e poi lo scusa, non vale niente. Appunto, non va bene. Puoi immaginare, sono poi delle cose, come si dice, la vita te la rovini, anche se non hai colpa, te la rovini la vita ugualmente, perché non fa tre idee. E uno che corre è sempre colpa, perché c'è un limite di velocità in città. Lo devi rispettare, non puoi correre a 80 km orari in una via. Quello è sempre sparato quello con la macchina. L'ho visto diverse volte passa sparato perché porta le pinte, no? Deve fare in fretta e allora più le porte più guadagna, quindi cammina con la macchina. Certo, non guadagna, ma non chiamato, la chiamo sempre giusto.